Misterioso Oh. Una pura fe gualtier malade, studente solo e povero. Rumore di pazzi e fuori, sento parole. A togliere potessi tra di come che si risfuggono di qua, bastione, morì. Vivane tu, thank you. Thank you. perché non fugga più. Io t'ho gremita, ti serro palpitante. Thank you. già invado la nostra terra. Io degli Egizi luce sarò, fra il son, fra il plauso della vittoria, al re di Crostro mi svela il cuore. Sarai tu il santo della mia gloria, più renne ati di eterno amore. Sarai tu il deserto della mia gloria, più renne ati peace. Sai le giornate che buie e desolate sono No! mangerò il console della spenta repubblica romana. Oggi corona la castenza, disponete di me. Gelatevi, è una donna gelosa, un breve istante la rivendo. Presto! Scusa, Thank you. va, lasciami. Tu fino a stasera stai fermo al lavoro e mi prometti se a caso fortuna si attreccia bionda bruna a pregar non verrà donna nessuna. Lo giuro, amore. Ancora tu perdoni davanti la Madonna e tu 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目中请欣赏歌剧中的著名选曲，曲目有《女人善变》《爱情天使》《我亲爱的爸爸》《今夜无人入睡》《晴朗的一天》《冰凉的小手》《多么美丽的姑娘》，由帕瓦罗蒂、弗雷尼、米尔奈斯、萨瑟兰、派巴尔迪、霍华德等演唱。 Bella figlia, bella amore, schiavo son dei vezzi tuoi. Con detto, un detto sole, tu vuoi le mie pene, le mie pene. E senti del mio cuore il frequente palpito. Piangere non vo. Bella figlia, bella amore, e come sarà giunto, chi dirà, chi dirà, chi amerà butterfly dalla lontana. Io senza dare risposta me ne starò nascosta un po' per il cielo e un po' per il vaporo. Thank you. vorrei ridarti le dolci grezze del mafio sforo le regala certo sulle frimposa Oh,